Io la cosa che mi viene a botta da rispondere così è proprio l'esperienza, no? Nel senso, nel momento in cui noi abbiamo fatto la carta al folletto, che è stata la prima carta, poi gli unici con cui abbiamo spinto è stato il Leo, no? Dire, cazzo, cioè, c'è un posto gigante, vabbè, 2 volte, vabbè, mi sgriderà. Bisogna lasciare un segno che continua anche durante l'anno. E vabbè, lì alla fine. Poi in realtà, poi anche Gabriele ne parlavamo. Lui è stato il primo in autonomia a prendere dei vini. Poi sto vedendo in questi giorni, anche quando abbiamo messo il programma così, sono arrivate più. Anche con dei malintesi, no? Nel senso che, ad esempio, i ragazzi del Pacipaciana, che è un centro sociale di Bergamo, ci hanno chiamato. Ci si conosce anche direttamente, ci fanno: ah, vorremmo fare anche noi la carta dei vini, con l'idea che noi del folletto facevamo la distribuzione, no? Ah, diteci. Io gli ho risposto: guarda, sul sito del folletto, sul sito della Terra Trema ci sono altre 3 carte, vai a vedertele. Lo schema è quello. Poi, durante i 3 giorni della Terra Trema, fatti un giro, assaggiati i vini e scegliti i vignaioli, no? Lo stesso a Gabriele, nel senso, Gabriele forse ci ha chiesto delle indicazioni di tipo geografico, di tipo di vino. Poi però lui, tra l'altro, se ne è fatte 5-6 di edizioni, aveva già un'idea sua così. Quindi l'idea non è. Cioè, la roba è che forse il sito della Terra Trema diventa veicolo di pubblicità. Anche, non so, questa edizione, una cosa rispetto agli anni passati. Ci sono arrivate un sacco di telefonate, di interesse rispetto a riviste di settore, cose del genere, che noi tra l'altro non è che abbiamo una cultura, manco alcune, manco le conoscevamo, andavamo a vedere dopo, ci interessavamo. Quindi c'è un interesse, nel senso, come idea della cosa. Se tu mi dici, boh, la Terra Trema può essere, la Terra Trema, Critical Wine, quel che è. Può essere il veicolo di lo sponsor della cosa. Poi dopodiché diventa un processo veramente dal basso, che ognuno che attraversa questo spazio, questi momenti, sì, conosce i vignaioli, sceglie un'altra un gruppo d'acquisto, ci ha chiamato la stessa cosa, pensando sempre che noi. A lì ci è venuto anche il dubbio di dire forse siamo i più coglioni di tutti che non fanno il business del vino, nel senso che comunque. E quello lì è un altro discorso. Però no. C'è questo malinteso, ma a noi non ci interessa perché sappiamo, abbiamo già visto altri tentativi di esperienze del genere abortiti subito, perché comunque poi dopo c'è tutta una serie. A noi facciamo un altro tipo di lavoro, non ci interessa fare distributori di vino, ci interessa essere motore o enzimi che fanno partire dei processi. L'abbiamo fatto, è così, quindi sta poi a veicolare il più possibile questo tipo di modalità. Secondo me, alla fine si tratta di una modalità che poi appunto non governa, ma anche rispetto a quello che poi succede durante i 3 giorni della Terra Trema. Insomma, ci sono cose che a noi completamente ci sfuggono. Sono rapporti e relazioni che vanno al di là di noi, non c'è una struttura. E questo, secondo me, è la forza di questa esperienza. Se no, avremmo cortocircuitato subito, insomma. Quindi sicuramente c'è questo supporto, il web, c'è questa iniziativa, ce ne sono delle altre, può essere quello, insomma. Poi è chiaro che a noi ci vengono, però queste sono il tipo di risposta che diamo, insomma. Vai, scegliti. E poi sta un po', è chiaro che poi per ora situazioni spiacevoli, ma è inutile fasciarsi la testa prima di rompersi, nel senso che magari, probabilmente, non lo so, se magari domani vediamo che qualcuno fa una carta dei vini simili con boh.